Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Alessandro Milan, bravo, bravo, bravo. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Bene, bene, bene, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, siamo qui alle 9:07 minuti per una nuova puntata di Uno, nessuno, 100 Milan. Ci siamo con voi insieme alla nostra redazione. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, l'Alpino in regia, lo schieramento prevede anche disteso sul divano in vestagliona, in arrivo dunque in collegamento remoto, il signor Bonetti, Leonardo Manera, che arriverà attorno alle 9:30, minuto più, minuto meno, solito fannullone, vabbè, non è cambiato nulla. E il vostro contributo, se volete, all'800 24 0024 via telefono, oppure sms, whatsapp, soprattutto audio, al 349 238 6666. Un numero 349 sì. 238 666. E nato sei, eh sì, quello che ho detto io in maniera un po' più chiara. Potete anche mandare i vostri audio per le presigle, come la nostra ascoltatrice, la presigla che abbiamo mandato. Presigle positive e anche negative. Sapete che qua accogliamo tutto e tutti. 9-8 minuti, vai Alpino. I will not be easy and it will not be easy. Io devo dire, rinnovo l'appuntamento e vi ricordo l'appuntamento che abbiamo il lunedì con la rubrica Tutti a scuola con Maria Piera Ceci, che ci aiuterà a capire un po' come ripartirà, se ripartirà. Sulle mani per gli studenti! Va bene, sì. No, non stiamo parlando di manifestazioni, stiamo parlando di come e se e quando ripartirà la scuola, in quale condizioni. E ce ne occuperemo lì, perché per il resto devo dire che comincio a essere un po' stanco di leggere 7-8 pagine ogni giorno sui giornali sulla scuola e come ripartirà. Tanto non ci sono grandi novità, non ci sono grandi. Bisogna attendere. Ormai le regole in qualche modo sono state fissate, vediamo come andrà. Certo, si cade un po' nel colore. L'unica cosa che voglio citare oggi è la linea dura che ho letto su Repubblica. Sentivo anche Simone Spezia, che giustamente ha invitato gli ascoltatori a commentare. Qualcuno ha ritirato fuori la scena fantoziana del tutti in ginocchio sui ceci. La linea dura, non Maria Piera Ceci, i ceci, proprio i ceci. La linea dura dei presidi per combattere coloro che avranno magari la sventurata idea tra gli studenti e le studentesse di non portare la mascherina in classe, perché magari sono giovani, magari sono bizzosi, magari sono appartenenti a una categoria di persone che ritengono che la mascherina non sia importante e sbagliano. Puntiamo sul senso di responsabilità degli alunni, ma Ilaria Venturi su Repubblica racconta anche un corollario di cose un po' bizzarre, secondo me, che stanno pensando alcuni presidi. La migliore è questa: a Perugia si pensa di punire i ragazzi che non porteranno la mascherina con questa punizione: 2 interrogazioni ogni mattina per 3 giorni consecutivi. Ragazzi, io quando ho letto questo ho detto vabbè, ma dai, ma siamo... Poi vabbè, spuntano ovviamente i 5 in condotta, chi propone la sospensione, chi... Ma questa è stupenda, cioè 2 interrogazioni ogni mattina per 3 giorni. Cioè non porti la mascherina, oggi ti interrogo in storia e geografia, domani in latino e matematica, e dopodomani vedremo, ti appioppieremo altre 2 materie di interrogazione, 3 giorni consecutivi. Se non basta tutto questo, c'è la vecchia anche soluzione del nostro caro ascoltatore, che ci suggerì, credo, da Reggio Calabria. Ci vorrebbe una bella passata di Miccio De Boe, in loco. Miccio De Boe, il Miccio De Boe. Va bene, dai. Siamo così assorbiti dal Covid, in tutte le salse, il Covid che ci ha davvero assorbito la vita, i pensieri, ci ha introiettato ansie, paure. Ma ci sono anche altre vicende drammatiche. Quella, per esempio, con cui voglio aprire oggi la trasmissione. La Stampa è l'unico giornale che mette questa notizia proprio come apertura di prima pagina, e secondo me lo fa ragione, perché quando si parla di neonati che hanno perso la vita e di neonati che sono rimasti menomati, di neonati che forse non sono rimasti menomati per tutta la vita perché riescono a superare la situazione e che però hanno dovuto passare momenti di grave difficoltà loro e le loro famiglie. Di cosa sto parlando? Di quello che è stato già definito il batterio killer. Parlo dell'ospedale, un ospedale di Verona, ospedale della donna e del bambino. Bisogna usare il condizionale. Io uso il condizionale perché si sa, quando una vicenda non è arrivata ancora a un giudizio di tribunale definitivo, bisogna usare il condizionale, anche se la relazione che è stata portata avanti è abbastanza impietosa e riguarda questo batterio killer che è stato scovato nell'acqua, quindi nei rubinetti dell'ospedale, e che sarebbe la causa di alcune morti di neonati. Il batterio è il Citrobacter coseri, per carità, non siamo esperti di medicina, ma è un batterio che in caso di neonati può essere fatale. Allora, c'è questa relazione e c'è anche una donna e il suo avvocato, sono anche parenti, sono fratelli, che hanno portato avanti coraggiosamente questa battaglia dall'inizio, soprattutto da quando Francesca Frezza purtroppo ha perso la propria figlia. Nina, la saluto e la ringrazio, signora Frezza, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Così come saluto il suo avvocato e fratello Matteo Frezza, buongiorno avvocato. E... Buongiorno a voi. Allora, signora Francesca, lei intanto le posso chiedere dove ha trovato il coraggio di portare avanti in prima persona questa battaglia? La vediamo spesso in TV, anche con le gigantografie, le foto di sua figlia Nina. Ma sa, quando si perde un figlio e lo si perde così, quindi già la perdita di un figlio per una malattia... quindi una causa naturale, è sicuramente qualcosa di irrazionale, qualcosa che viene definito contro natura, perché è contro natura. Se lo si perde così, e se soprattutto, come è capitato a me fin dall'inizio, ho capito subito che c'era qualcosa nel comportamento, nell'atteggiamento da parte dell'equipe medica, capì subito che c'era qualcosa che non mi tornava. Dico sempre che era come un puzzle che non riuscivo a costruire, e piano piano questo puzzle ha preso forma. Cioè, lei ha sospettato subito che qualcosa in ospedale non fosse andato per il verso giusto? Sì, forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio il comportamento dell'equipe medica. Proprio ieri riflettevo e dicevo, se si fossero comportati diversamente, forse magari non mi sarei nemmeno reso conto se il loro atteggiamento fosse stato diverso, e avrei potuto tacere, non rendermi conto di quello che realmente succedeva. Nina, dopo l'infezione, appena contratto l'infezione, come causa del danno cerebrale infettivo, ha sviluppato questo idroencefalo, quindi formazione di liquido nel cervello, e a distanza di un mese. E a un certo punto mi dissero che andava fatto un intervento, un'operazione in testa, chiamata tecnicamente derivazione ventricolo peritoneale. Si formava liquido nel suo cervello, che normalmente si forma in tutti noi, ma mancando le strutture cerebrali questo liquido non veniva riassorbito. Quindi bisognava fare un intervento che andasse a estrarre questo liquido in più che si formava. Sì. Mi dissero chiaramente che l'intervento non avrebbe avuto nessun beneficio clinico, ma era un intervento che andava fatto solamente dal punto di vista estetico. Al che rimasi così, subito fermai il consenso. Poi, riflettendo e rendendomi conto, soprattutto, cosa che non mi venne mai detta fin dall'inizio chiaramente, le cose me le dicevano pezzo a pezzo, sì, a bocconi. Sì, c'è da dire che c'è stato uno sviluppo, nel senso che la Regione Veneto ha nominato due commissioni, una esterna e una interna, e ripeto, usando sempre il condizionale, ma questo batterio avrebbe colpito 96 neonati, 4 dei quali sono, non ce l'hanno fatta, sono morti, 5 hanno riportato danni permanenti al cervello. So che il presidente Zaia della Regione Veneto, se non sbaglio, l'ha chiamata, signora. Sì, il governatore mi ha chiamato fin dall'inizio, dimostrando sicuramente la sua vicinanza, anche proprio dal punto di vista umano, per quello che era successo. Ha istituito subito la commissione scientifica, una commissione, devo dire, di grandi esperti, quindi una commissione autorevole, e ieri mi ha chiamato a esito della commissione. Sì. Io vorrei chiedere a suo fratello, all'avvocato, che ha sottolineato come gli attori, dico una sua dichiarazione, avvocato, mi corregga se sbaglio, gli attori di questa triste vicenda sono ancora al loro posto. Sa, in Italia però lei fa l'avvocato, ci vuole ovviamente, nel caso, quantomeno c'è una procura che indaga, insomma, lo trova scandaloso che in questo momento ancora siano al loro posto? A mio avviso sì, a nostro avviso sì, perché dopo l'uscita di questa relazione medica, di questo, diciamo, screening fatto dalla commissione, mi sembrava doveroso da parte loro, per trasparenza, per rispetto, soprattutto per rispetto delle vittime e anche di chi non è proprio vittima, farsi un attimo da parte. Certo. Prenderla, diciamo, in un altro modo, gestirla in un altro modo, dare un segno di cambiamento rispetto al passato. Ecco, voi che tipo di, perché sa, si dice sempre, dopo tutto quello che è successo, la tragedia non è che si può né quantificare economicamente né risarcire in alcun modo quello che è successo alla famiglia. Che cosa però chiedete a questo punto? Ma chiediamo, sembra banale dire chiediamo giustizia, chiediamo e credo che la stiamo ottenendo un pezzo alla volta, perché la Procura di Verona si sta muovendo egregiamente, a partire dal procuratore e ai suoi delegati, sono assolutamente efficienti, quindi da questo punto di vista chiediamo che si possa procedere, arrivare fino in fondo. Fino al chiarimento definitivo di ogni risvolto di queste vicende. Sì, io vorrei rispondere anche a un'ascoltatrice che dice: ma da quando in qua si dà l'acqua del rubinetto ai neonati? Ovviamente non è così. L'acqua negli ospedali si usa per qualsiasi cosa, anche solo per fare il bagno, il bagnetto. Poi posso fare una precisazione, nella relazione c'è scritto, la premessa è che il batterio viene dall'esterno. Ah. La premessa è la carenza di igiene. Ecco. Poi non è che il batterio ha le gambe, certo, è stato portato fisicamente, e carenza di igiene evidentemente si è, diciamo, annidato nei rubinetti. Lei, signora Francesca, su questa carenza di igiene varie volte credo che abbia fatto le dichiarazioni, anche da mamma, anche nel momento in cui era lì, no? Sì, certo, quello che sto sostenendo da più di un anno è proprio questo. Io ho visto con i miei occhi la carenza di igiene che c'è stata e che c'era in quel reparto. Quello che dico sempre, la prima volta, dopo aver appena partorito Nina, avevo fatto un cesareo, quindi veni accompagnata con la carrozzina giù della terapia intensiva. Suonai il campanello, perché c'è un campanello, e mi dissero: chi è? La mamma di Nina, Francesca Fresta. Mi aprirono la porta, e quindi è una porta che tu entri diretta, quindi non ci sono filtri, erano tutte le porte aperte, che una volta che mi hanno aperto la porta principale, poi non c'erano altre porte che separassero, verso l'open space della terapia intensiva, dove ci sono tutte le culle dei bimbi. Entrai e nessuno mi accolse, nessuno mi spiegò quelle che dovevano essere le regole, le buone norme igienico-sanitarie che avrei dovuto rispettare da quel momento in poi, perché avrei dovuto fare visita tutti i giorni a mia figlia. Sì. A buon senso vidi, entrai in questa specie di corridoio, vidi che sulla destra c'era una stanza con scritto filtro lavaggio, entrai, c'erano dei camici, c'era un rubinetto, c'era un dispenser di soluzione alcolica, e a buon senso mi vedi il camice, mi lavai le mani e le sterilizzai. Ma a buon senso, a discrezione mia, avrei potuto entrare come nulla fosse all'interno dell'open space con tutti gli altri bimbi che erano nel cool. Quindi questa fu la prima cosa che la colpì, lasciò baldita. Ho video che sono stati depositati alla procura di Fattorini dell'ospedale, che entrano dentro da questa porta che vi dicevo prima senza passare dal filtro lavaggio, lavarsi le mani, mettersi il camice. Tutti i genitori stavano all'interno della terapia intensiva con i telefonini, magari uscivano per la pausa caffè, andavano al bar, appoggiavano il telefonino e rientravano con i telefonini. Certo, sentendo questo, sentendo questo e anche prego finisca signora Francesca. No, tutto questo poi l'ho paragonato quando chiesi le dimissioni e portai Nina al Gaslini, invece con la professionalità e con il rispetto delle norme igieniche che invece io ho visto e per prima ho rispettato al Gaslini. No, ma certo, ma devo dire che con tutte le norme igieniche di cui giustamente ci parlano adesso dopo la vicenda Covid fa abbastanza specie sentire così, però devo dire che chi ha frequentato ospedale anche negli anni scorsi, anche prima della vicenda Covid, voglio dire, un po' delle condizioni che lei ha descritto le ha sempre trovate. Certo, nella relazione della commissione ispettiva attivata dalla Regione Veneto, quello che è stato scovato è questo batterio Citrobacter coseri, che ripeto, soprattutto nei neonati può essere fatale, come è stato fatale in quattro casi, e cinque, ripeto, hanno con danni permanenti al cervello. È stato trovato sul rompigetto di alcuni rubinetti e sulle superfici interne ed esterne dei biberon. Ecco, questa frase sembra abbastanza inchiodare la situazione. Io per il momento vi ringrazio davvero, sia Francesca Frezza, ripeto, madre di Nina, bambina perduta, messa alla luce e poi non ce l'ha fatta, e lei insieme a suo fratello Matteo, che è avvocato suo, sta portando avanti questa battaglia, che insomma io quello che posso dire è in bocca al lupo, perché poi al di là della battaglia c'è la tragedia personale da affrontare, E a proposito di oggi, ho voluto iniziare con due storie, questa che trovate su tutti i giornali e una che magari non trovate adesso sui giornali. Qualche giorno fa ne scriveva Grazia Longo sulla Stampa di questo signore di 88 anni a Soccavo, Napoli, che disperato per la condizione di due figli con varie disabilità è arrivato a sparare e a ucciderne uno dei due. Per la verità voleva ucciderli tutti e due, pensava di averli uccisi tutti e due, tanto che poi ha chiamato i carabinieri dicendo: venite qui, ho ucciso i miei figli, uno dei due in realtà non l'ha ucciso, perché io sono disperato, non so più cosa fare dopo che non ci sarò. Pensate a questo signore di 88 anni. Sono tutte vicende che secondo me pongono delle riflessioni importanti. Poi ripeto, questa storia del Covid, importante a sua volta, ha come assorbito tutto, anche le prime 10-15 pagine dei giornali, e di queste altre storie non si parla assolutamente. Io ritrovo con piacere Giovanni Cupidi. Buongiorno, ciao Giovanni. Buongiorno a tutti. Giovanni Cupidi, autore di un blog molto, molto seguito, attivista per i diritti delle persone che portano, che hanno disabilità. Fa sempre specie leggere notizie del genere, non è la prima volta, Giovanni, non bisogna neanche trarre conseguenze tranchant per dire: ecco, vedete cosa succede, perché ci sono tantissime persone, che famiglie che vivono la disabilità con grande forza, con grande dignità, però c'è questo rischio di tragedie che sono dietro l'angolo, come quella di Soccavo, Ma purtroppo, come ben hai detto tu, non è la prima volta che ci ritroviamo a dover commentare di queste notizie che nascondono tra l'altro tragedie all'interno di altre tragedie. È pur vero, come hai detto tu, che si vive la disabilità in famiglia sempre con molta dignità, con molta forza, si porta avanti. Anche la scomparsa certamente di un genitore non deve consistere in una ulteriore escalation tragica. Però è pur vero che questi episodi li stiamo commentando già tanti, sì. E non possiamo non dire che questi episodi siano comunque alla fine frutto di una situazione di abbandono da parte delle istituzioni, dalle più grandi alle più prossime, ma anche da un abbandono comunque anche della società civile. Perché... Sì, perché Giovanni, scusa, io ti faccio questa domanda, va bene, se anche una persona con una disabilità più o meno grave viene seguita magari da un centro diurno, viene seguita e supportata economicamente e fino a lì si può arrivare, ma poi quando un genitore non c'è, o comunque una persona che vive 24 ore su 24 con la persona che ha la disabilità, cioè non si potrà mai sostituire quella cosa lì, no? No, è ovvio che quello è un fattore, una presenza insostituibile. È pur vero che questo però ci porta anche a considerare quanto è stato permesso un'evoluzione della persona che ha una disabilità, quanto quella persona è stata portata fino al massimo, alla sua massima possibilità di autodeterminarsi, pensiamo specialmente quando ci sono delle disabilità intellettive, e quanto questa poi possibilità di autodeterminazione porta all'indipendenza, perché poi il concetto è lì, nella vita normale a un certo punto ci si stacca dal genitore, si diventa in qualche modo indipendenti, per cui il trapasso del genitore è una conseguenza naturale, sempre triste, sempre tragica, ma naturale. E nelle situazioni in cui c'è una disabilità, il fattore di indipendenza della persona è fortemente ostacolato, per cui, come hai detto tu, il genitore è una presenza insostituibile. Per cui, venendo a mancare il genitore, seppur nella migliore delle ipotesi dell'assistenza della rete sociale, comunque è una presenza, una mancanza tragica. Se invece riusciamo a rendere quella persona il più possibile indipendente, allora anche lì possiamo piano piano vedere che è fare percorsi in cui la scomparsa del genitore diventa un fatto triste, sì, tragico, ma naturale. Superabile. Questi sono tutti processi che oggi nella nostra società in Italia fortemente mancano, perché noi continuiamo a parlare sempre di assistenza, parliamo moltissimo di dopo di noi, che comunque non c'è, con una legge che funziona male, con risorse molto scarse, ma diciamo, voglio essere positivo, è stato fatto un primo passo, ma quante delle persone poi riescono realmente a vivere in fattori di indipendenza? Ovviamente secondo ognuno le proprie potenzialità, capacità residue e date alla società, e noi finché continuiamo a parlare in questi termini, una persona con disabilità sarà sempre vista come un costo, come un peso e non come una risorsa, che invece in quel caso diventa. E quando noi cambiamo questo paradigma, allora probabilmente anche queste situazioni così tragiche magari saranno casi veramente isolati, ed eccezionali. Purtroppo oggi non è così, perché mancano questi processi evolutivi intorno alla persona. Mancano le risorse. Io per esempio dico, sì, negli ultimi mesi, ma anche giustamente con quello che hanno subito soprattutto a marzo nelle residenze sanitarie assistite gli anziani, si parla tanto di gli anziani, proteggiamo gli anziani, il coronavirus, e invece per i malati cronici che cosa fa lo Stato? Per i disabili cosa fa lo Stato? Ne abbiamo già parlato quando c'era anche Gian Antonio Stella che ha scritto il libro e ti avevamo ospitato. Ecco, che cosa fa lo Stato per le persone? In tempi di Covid e soprattutto in tempi di lockdown, se per le persone è stato difficilissimo dover affrontare in casa questo periodo di astinenza dalla vita sociale, dalla propria, tra virgolette, libertà, per chi ha una disabilità cronica, perché era grave o gravissima disabilità, lockdown è stato, e per le famiglie soprattutto, è stata una mazzata incredibile, perché non c'è stata una diciamo progettualità, una attenzione molto più particolareggiata. Io guarda, ti faccio un esempio qui in Sicilia, ad esempio, da un giorno all'altro sono stati sospesi tutti i servizi di tipo sanitario, cioè i centri, che ovviamente potevano costituire un fattore di rischio, essendo centri ovviamente dove si aggregano tante persone, ma le terapie domiciliari, la riabilitazione, cioè si è assistito chi ha avuto una disabilità e aveva bisogno di queste terapie, nel periodo del lockdown si è ritrovato completamente solo, quindi le famiglie sono state ancora più sole diciamo rispetto a già una condizione difficile, ed sono stati 3 mesi difficilissimi da affrontare, in cui io sono certo che questo senso di solitudine si è molto più accanito, sì. Non solo appunto per la mancanza di socialità, ma anche per la mancanza di quegli elementi primari che costituiscono anche il quotidiano di una persona, le terapie, l'avere la presenza del terapista o del logopedista, a seconda le, quindi sono stato un periodo veramente molto complicato per tutti. Molto complicato, e si è stentato anche quando è stata annunciata la fine del lockdown, si è molto stentato con il ritorno a una normalità, al riprendere la terapia, alla riapertura dei centri, anche se già erano state fatte le ordinanze o la legge aveva previsto la riattivazione di questi servizi. Tutto ha avuto un processo molto molto lento, e adesso diciamo che le ultime notizie non ci fanno stare neanche molto, molto sereni, molto rispetto a questa situazione. Sì. Io voglio, tra l'altro, nel ringraziarti, voglio ricordare Giovanni Cupidi, se fate giovannicupidi.com per entrare in contatto, poi fa parte anche del comitato Siamo Handicappati No Cretini, insomma, è molto molto molto attivo come blogger, e ci sentiamo presto. Giovanni, intanto grazie, devo andare un attimo in pubblicità, poi arriva il nostro Leonardo Manera. 1 nessuno 100 Milan. Milan, ma scusa, quest'anno la polemica sulle vaccinazioni e sui certificati ce la siamo dimenticata. Si va a scuola con la mascherina ed è passato tutto. Milan, vedrai che alla fine si vedrà che avranno tagliato sicuro come l'oro la manutenzione e la sanificazione, probabilmente con il cloro, perché lì va sanificato il rubinetto, le postazioni con il cloro, eccetera. Avranno tagliato i ponti della manutenzione, no? Per risparmiare, e se sicuramente si è arrivati a questa situazione qua. Pensa te se capitava Leonardo Manera per punizione a scuola 2 interrogazioni ogni mattina per 3 giorni consecutivi. Bonetti? Buongiorno. Bonetti? Buongiorno. A me capitava di peggio. Noi avevamo un professore di italiano molto bravo, peraltro, che se tu chiedevi un giorno di essere giustificato, cosa che era lecita ogni tanto, cioè professore, ieri non ho potuto prepararmi eccetera per l'interrogazione, lui diceva, siccome interrogava a volte utilizzando il dado, diceva il dado che tirano, il dado da mangiare, sì, il dado che il si dado, ogni tanto diceva ti giustifico io ma non ti giustifica il dado. Quindi se esci col dado ti interrogo lo stesso. E casualmente quando uno chiedeva di essere giustificato, dado, col dado usciva quasi sempre. Dado bastardo. Ma scusa, il dado va da 1 a 6, come funzionava? Sì, eravamo divisi in gruppi, eravamo 3-4 gruppi, e all'interno del gruppo poi c'era fino a 6. Quindi prima tirava per il gruppo e poi tirava per il numero all'interno del gruppo. Quindi e io gruppi, ero gruppo da 6, uno, gruppi da 6, guarda, praticamente. No, io lo ricordo 5. Ancora, io ero gruppo 1, numero 6. E veniva sempre, statisticamente ragazzi è difficile però, che venga prima 1... C'hai una possibilità su 6 e poi anche gruppo 1 numero 6. Ma il problema è che noi non vedevamo quello che usciva sul dado, perché ovviamente lui lo tirava sulla cattedra. Ah, e quindi, vabbè, ho capito. Allora bravo a insegnare, ma un pochino truffatore, sì, questo comunque, professore. Pensa se ti capitava, già. Stupenda. Comunque, 2 interrogazioni ogni mattina per 3 giorni consecutivi. Questa è la punizione che si sta studiando all'Istituto Tecnologico Volta di Perugia. Secondo me è vessatorio, è una cosa. Io farei ricorso, ricorrerei contro punizioni vessatorie di questo tipo. Io poi volevo anche dire che mi sento un po' stanco. Abbiamo iniziato attenzione. 2 giorni, ma attenzione. Mi sento un po' debilitato. Siamo allora volevo utilizzare. Ecco, sì. Giusto. Nella prima settimana sarà una lunga stagione, signori. Una ecco, lunga volevo stagione. Utilizzare la radio per chiedere se settimana prossima c'è qualche resort di lusso che mi può ospitare gratuitamente per un paio di giorni. E dopo io in cambio ogni tanto li cito in radio, anche senza dirlo in modo esplicito. Faccio passare il nome del resort in modo subliminale. Io ti faccio anche andare avanti in questa cosa profondamente illegale. Già se tu fossi un giornalista saresti stato radiato o segnalato al se ci fosse il direttore ordine. Di qualche resort di lusso che mi vuole ospitare per 2-3 giorni la settimana prossima, io posso fargli questa pubblicità in diretta ecco, senza farlo notare. E adesso troppo, voglio diciamo. Vedere quale responsabile di un resort di lusso si piega biecamente a questa richiesta spudorata di Leonardo Manera. No, prego, mandate pure al 349-238. 6, possibilmente 6. Con una piscina abbastanza grande e riscaldata, che mi piace poi stare nella piscina un po' riscaldata sui 30 gradi, poi con un po' di massaggi, spa e poi con la possibilità di fare anche un po' di attività fisica all'aperto, tennis per esempio, ecco è sufficiente questo. Va bene, io invece ti volevo sottoporre questa notizia. Elaine Thompson. Fai finta di sapere. La conosco, certo. No, non la conosci ovviamente. Elaine Thompson, che vinse la lotteria, ne parla oggi il Messaggero, vinse la lotteria certo. 25 anni fa, il lotto per la verità, 3 milioni di euro, ma ha deciso di non cambiare nulla della propria esistenza, cioè fa l'operaia perché dice: avevo 2 bambini piccoli all'epoca e ho voluto educarli con l'idea che i bambini ti debbano vedere lavorare duro per sapere che dalla vita non arriva nulla se non lavori duro per ottenere tutto questo. E quindi allora ecco, io dico che gli ascoltatori è bene, tu che chiedi il resort esatto, dopo 2 giorni. Stavo proprio facendo questo parallelo di esempio che si può dare ai figli, di me che chiedo il resort gratuitamente per 2-3 giorni facendo pubblicità occulta, oppure della signora Thompson che continua a lavorare un lavoro pesante peraltro nonostante 3 milioni vinti alla lotteria. Io mi chiedo agli ascoltatori qual è l'esempio più produttivo per le nuove generazioni. Io penso che sia il mio. Invece più che produttivo io direi anche qual è l'esempio più educativo per i figli. Elaine Thompson che dice ai figli: bisogna lavorare duro anche se avete 3 milioni di euro, anche se mamma ha vinto 3 milioni di euro, vedete non ha cambiato vita, non ha comprato la macchina, non ha comprato una casa, dice una casa più comoda e punto. Oppure, caro Beniamino, secondo te, mi rivolgo a te, figlio di Leonardo, caro Beniamino, troveresti più educativo un padre come Elaine Thompson o un padre una come madre. Il tuo? Sì, vabbè, un padre, io mi riferisco a te, che vince i miei, oppure uno che chiede allora. Dopo 2 giorni di durissimo lavoro, di cui 2 passati a casa, chiede di andare in un resort di lusso. Allora, io penso che per adeguarsi alla società odierna sia più educativo il mio esempio. Penso che il mio esempio di chiedere gratis il resort di lusso ti permetta poi di integrarti meglio nel mondo che verrà e sfido gli ascoltatori a dimostrarmi il contrario. Io penso che il mio esempio sia l'ideale per la società di oggi. Va bene. Allora, non ti sottopongo questa invece di altra notizia perché prima di andare al traffico, perché è più una battaglia che porta avanti io a favore dei gabbiani. I gabbiani, animali adorati, adorabili, stupendi. Sentine, che anche in Vaticano è partita la guerra ai gabbiani. Anche Papa Francesco, che è vestito sempre di bianco, tra l'altro il colore candido come candidi sono i gabbiani, ha fatto installare una rete di laser verdi proiettati sul terreno, perché pare che il gabbiano, se vede un laser verde, lo percepisce come una minaccia. Questo, Leonardo, tu potresti darci una perla di scienza. Beh, dico... oggi alla Piero Angela, come... No, tu lo sapevi questo, che il gabbiano, se vede il raggio laser verde... No, questo verde. Ammetto che non lo sapevo, non so. Da dove deriva quindi... la parola gabbiano? No, scherzo. No, niente, hanno fatto questa guerra per cacciare i gabbiani, con i laser verdi che vengono proiettati, scrive il Messaggero. Beh, per io terra. Dico che comunque è meglio il laser verde che non mettersi sul balcone, sì, lì di Piazza San Pietro col fucile. Quello è vero. No, smettila. Cari fratelli, boom. No, meglio del... no, dai. Abbiamo un po' scherzato, dai, andiamo, sì, alle informazioni sul traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 9:46 minuti. Dispiace rientrare in diretta con una notizia che riguarda una persona che ci ha lasciato, è la notizia di poco fa, Philippe Daverio, che era uno storico, critico d'arte, anche ospitato, è stato anche assessore alla cultura a Milano, è stato ospitato anche qui ai microfoni di Radio 24 diverse volte, storico, critico d'arte, forse lo ricordate anche per il suo papillon che esibiva sempre. E Leonardo, insomma, questa è la notizia che devo dare di cronaca, so che anche tu forse qualche volta l'avevi incrociato. Sì, l'avevo conosciuto in programma proprio radiofonico. Aspetta che l'app ci abbandona, prova a ricollegarti, eccoci qua, forse adesso va meglio. Eh no, aspetta, perché c'è l'app che ci ha un po' abbandonato, Leonardo, devi rivedere il collegamento, prova a sganciarti e rimetterti, vediamo se ci sei adesso, ci sentiamo meglio. Sono. Eccoci. Sai che non vorrei che poi questi problemi con l'app mi costringessero a tornare poi tutti i giorni in studio. Comunque, dicevo, no, che io l'avevo conosciuto Philippe Daverio alcuni anni fa ed era una persona squisita, nel senso, a parte la grande cultura, ma anche il modo che aveva di fare era così apprezzabile da tutti i punti di vista. Quindi... Assolutamente sì. Comunque, e poi nei giornali radio ovviamente verrà ribadita la notizia, ma questo è il dato di fatto, la morte di Philippe Daverio a 70 anni. Vorrei sentire Mario da Prato. Buongiorno Mario. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Chiamavo con riferimento a quell'intervento, a quel racconto che avete, quello che è successo a Verona, per intendersi, sì, il batterio, sì, nell'acqua. Sì, sì. Allora, sono un progettista di impianti, quindi per darvi l'idea, per chiarirvi meglio la questione. E c'è una cosa che dovrebbe essere conosciuta da tutti, non è conosciuta da tutti in realtà, e quindi spiega anche perché c'è questa rincorsa delle responsabilità, e cioè la possibilità di prendere e di ammazzare virus e batteri in partenza mettendo ozono nell'acqua. Allora, vi do un'immagine per darvi l'idea. Avete immagino però voi... scusi, che negli ospedali conosceranno, adesso io non lo so, prendo per fede questa sua, visto che fa questo di lavoro, conosceranno dei sistemi, e ci sono dei sistemi di igienizzazione per, allora, stroncare i batteri. Purtroppo nei libri sacri, nella progettazione degli impianti e nei corsi, questa pratica non viene raccontata, esattamente come i medici non fanno esami sull'ossigeno ozonoterapia, per esempio, sulla, sì, GAET. Quindi la maggior parte dei medici conosce l'ozono come qualcosa di, come si dice, velenoso, sì, mentre in realtà, come si dice, è trasformare davvero il veleno in medicina. L'ozono è portentoso per tutta una serie di pratiche e mediche e anche per depurazione dell'acqua. Vi do un'immagine: quando voi andate in piscina, sì, vedete sempre l'acqua inquinata, no? L'acqua, non riuscite a tenere gli occhi aperti in piscina, vi danno noia. Quando invece vedete gli Olimpiadi, vedete acqua meravigliosamente trasparente. vedete tranquillamente gli atleti che nuotano benissimo e non prendono i funghi loro. Noi di solito andiamo in piscina e prendiamo funghi, perché? Perché l'acqua delle piscine olimpioniche per le gare e così via è trattata con ozono. Con ozono, va bene. Vi do un'altra immagine, se mi permette, posso darle un'altra immagine. Tutti parlano, per esempio, di questa malattia, virus e così via, che sembra che non ci sia la cura. Bene, se voi fate il trattamento con la GAET, grande autoemoterapia, con l'ozono per intendersi, ci sono medici che la fanno tranquillamente, se volete vi do i nomi, è chiaro che le persone stanno benissimo. Però... si curano anche per un sacco di malattie e anche Mario, io l'ho fatta parlare tutto, però a dire che lei ha la cura per il Covid, se ho capito bene, con l'ozonoterapia forse è un po' esagerato, non crede che l'avrebbero già, come dire, c'è il mondo bloccato, forse qualcuno avrebbe detto facciamolo, no? Mi sembra un po' esagerato, però tu sei un cultore. Io volevo però dire al signore che se mi fa avere una mazzetta io posso parlare tutti i giorni dell'ozono. Dopo la gente ci crede, tu lo dici come battuta, ma è una volta e due volte e tre giorni di seguito e quattro e cinque, dopo ti arriva. Tre giorni di seguito, è la prima sono volta già arrivati tre dépliant di resort di lusso, se vuoi, questo ci hanno già mandato. Ottimo, vabbè, almeno utilizzo la radio in qualche modo utile. È arrivata anche la mazzetta, allora, ma quella me la tengo. Va bene, Leonardo, prego. Ma l'ozono però funziona. Allora, il grande tema di questi giorni sono i figli e la scuola. I figli si dividono in due grandi categorie, quelli fino a 10 anni di età e quelli dai 10 anni in avanti. Quelli fino a 10 anni hanno sempre bisogno di te. Quelli dai 10 anni in avanti hanno sempre bisogno dei tuoi soldi e ne avranno bisogno per sempre. È più o meno come un mutuo, solo che col mutuo alla fine la casa diventa tua, coi figli alla fine la casa diventa loro. In più, oltre al problema economico, c'è anche il problema dell'educazione. Il genitore vorrebbe dare dei sani valori ai figli, l'educazione, la gentilezza, ma poi si rende conto che nel mondo quelli che hanno successo non sono educati, non sono gentili, anzi sono aggressivi. E allora i genitori, se devono indicare un esempio per dire tra Gandhi e Trump, scelgono Trump, capigliatura a parte, che tra avere i capelli di Trump o essere calvo, alla fine è meglio essere calvo. E allora un po' smarrito, un po' perso, il genitore ha la tentazione di delegare tutto alla scuola, scuola che dovrebbe educare e poi aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Ma se l'obiettivo è entrare nel mondo del lavoro, bisogna cambiare completamente la scuola, bisogna fare un'altra riforma, una delle mille. Prima di tutto cambiare i nomi alle scuole, basta con il liceo Montale o con l'istituto tecnico, magari Galileo Galilei. Se si vuole una scuola che per i nostri figli favorisca l'ingresso nel mondo del lavoro, ci vuole il liceo Maria De Filippi e l'istituto tecnico Tina Cipollari. Infatti, se davvero la scuola deve preparare al lavoro, bisogna dedicare le scuole alle persone che più di tutte possono introdurre nel mondo del lavoro. Vuoi diventare tronista? Frequenta il liceo Maria De Filippi. Vuoi diventare polemista professionista? Frequenta l'istituto tecnico Tina Cipollari. Vuoi stare sempre in TV senza motivo? Frequenta la scuola professionale Francesca Cipriani. Perché in fondo anche la scuola si deve modernizzare per soddisfare genitori e figli. E infatti la scuola cerca di adeguarsi come può, con tutte le difficoltà del caso. Si è messa sul mercato, fa gli open day con dei dépliant che sembrano quelli di un villaggio turistico. Vieni anche tu a studiare il teorema di Euclide con noi. La scuola cerca di essere anche un po' più tecnologica, magari c'è un pezzettino di soffitto che cade, però si cercano di fare lezioni online con i computer, con i tablet. Ma io sono ancora affezionato ai libri. Io, per esempio, credo che se Leopardi invece dei libri avesse avuto il tablet non sarebbe diventato Leopardi. Avrebbe studiato meno, anche perché col tablet, visto che Silvia non ci stava, sarebbe stato tutto il giorno su YouPorn. E in più, a scuola, se i professori sgridano gli alunni, rischiano subito la denuncia. Quando ero bambino io invece l'educazione era fin troppo severa, io avevo un maestro che ci trattava come prigionieri di guerra, infatti mia madre sul mio grembiulino, oltre al nome Leonardo, sotto aveva ricamato proprio War Prisoner. Però almeno io sapevo come funzionava, sapevo che la scuola era dura, che il maestro era cattivo e che comunque i miei genitori davano sempre ragione a lui, al maestro. e mentre pensi tutto questo accompagni tuo figlio a scuola, che in macchina tuo figlio vuole ascoltare solo musica trap, che parla praticamente solo di sesso, alcol, droga e prodotti di marca, che sono le stesse cose che interessano a molti adulti, anche se ai figli non bisogna mai farlo capire, perché altrimenti crescono proprio come noi. Bravo Leo, adesso è partita ovviamente la diatriba di molti che ci scrivono: non è vero che l'ozono sconfigge il virus, ma voglio dire, io per carità adesso non voglio entrare in questa diatriba medica di cui non so nulla, ci informeremo, però adesso è partita questa idea. Certo, ma io come ho avuto la sensazione che quel signore avesse qualcosa a che fare con l'ozono, forse l'ha anche detto. Lui è un tecnico, sì, l'ha detto, insomma, lavora nel settore. Comunque sentirei Giuseppe dalla provincia di Bari. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, finalmente, oh, signor Milan. Finalmente Giuseppe, come stai? Finalmente. Benissimo. Io sono un amante dei video, ho 120 video su YouTube che parla di tutti e di tutti, anche di canzoni, canto, eccetera. Che ho fatto il maresciallo dei carabinieri in vita con 33 sparatorie. Come in vita? In vita attiva. 33 sparatorie? In vita lavorativa, volevo dire. Ah, certo. mi piace tanto il fluoro, che non dice più maniera. Va bene. E poi volevo dirlo perché l'ho chiamata. Perché? La prima per ridere e la seconda per piangere. Quella per ridere è questa. I dirigenti della Ferrari, ormai stremati, non ce la fanno più e hanno chiesto, invocato l'aiuto dei tifosi. Ma voi sapete perché? Perché? Ma perché i tifosi devono spingere le due Ferrari? Ah, a mano. Chiaro, ma lei è un po', Manera ha anche una vita forse passata da quasi cabarettista. Ma io sono un ammiratore di Manera. Se lui mi vuol vedere e sentire, se ha tempo, ma non ha tempo, andasse su Peppino Berardo Mazzone. Non ho capito il cognome, Peppino l'ho capito. Peppino Berardo. Ho due cognomi. Berardo Mazzone. Peppino Berardo Mazzone. No, aspetti, si fermi lì perché devo andare al giornale radio. Leonardo, scopri questo nuovo talento, Peppino Berardo Mazzone. Adesso vado subito, guarda. Dai, su. Utilizzo la pubblicità per andare a vedere Peppino Berardo Mazzone. Sì, devo andare al giornale radio. Magari lo recuperiamo. Giuseppe della provincia di Bari promette bene. 1, nessuno, 100 Milan. Signori, siamo alla seconda ora di 1, nessuno, 100 Milan. Siamo con voi fino alle 11 con Leonardo Manera, che è lì a casa sua, comodo, bello, spiaggiato come una balenottera sul divano. Come va col ferro da stiro? Tutto a posto? Bene, bene, ieri ho letto anche le istruzioni e quindi sono pronto per partire con delle grandi stirate. Bravo, bravo. Ma pensa se in Italia, hai sentito che Macron ha detto che in Francia c'è libertà di blasfemia. Pensa se in Italia non sarebbe mai stata possibile una cosa così, immagino. Grande dibattito, insomma, la riapertura del processo Charlie Hebdo. Agli uccisori. Conte avesse detto in Italia c'è libertà di blasfemia. Pensa a quante polemiche si sarebbero innescate. Ricordiamo che a Charlie Hebdo hanno deciso di ripubblicare le vignette considerate appunto blasfeme su Maometto, che hanno portato poi alla tragedia dell'attacco terroristico contro Charlie Hebdo. Allora, però noi vogliamo collegarci con quella località da cui è partito un po' tutto, forse ve lo ricordate mesi fa, Wuhan, Cina. Sara Platto, buongiorno, le rubiamo due minuti, promesso. Buongiorno a lei. Come va? Non ci sentiamo da mesi. Sara Platto fa la veterinaria. Esatto, la Nutella è sempre presente e finalmente in grandi quantità. Oh, questo è il simbolo del fatto che a Wuhan le cose stanno andando per il meglio. Esatto. Stanno riprendendo. Noi 10 italiani siamo riforniti di Nutella. Perfetto. E soprattutto va tutto bene. Abbiamo letto sui giornali che sono riaperte le scuole. Ci aiuta a capire il calendario scolastico? Sì. È più o meno simile al nostro? Cioè ripartono adesso le scuole? Allora, quella normalmente, vabbè, le scuole cinesi partono il 1° di settembre sempre. E la scuola di mio figlio in teoria normalmente, perché è internazionale, partiva la prima settimana di agosto, tra la prima e la seconda settimana di agosto, ma per appunto a causa tra lockdown e sicurezze varie hanno fatto partire tutte le scuole, incluse le internazionali, col calendario cinese, quindi dal 1° di settembre. Perfetto. Con tutte come si dice attenzioni per la sicurezza, l'igiene eccetera eccetera e disinfezioni varie. Ecco, ma quali attenzioni? Ci faccia capire, siete ripartiti come? Mascherina? Per esempio sui giornali italiani è finita la notizia che prima cosa tutti gli insegnanti hanno il tampone, nel senso tutti gli insegnanti, in particolar modo vabbè, gli insegnanti di mio figlio sono per la maggior parte stranieri e quelli che stanno rientrando lentamente da, diciamo così, in Cina devono fare il tampone alla partenza, le 2 settimane di quarantena della struttura identificata dal governo più il tampone dopo le 2 settimane. Mm-hmm. Tutti gli studenti sono tamponati, quindi siamo tutti puliti con la colonoscopia, basta per dire. Siamo tutti belli puliti, sì. E in più a scuola si va con la mascherina, mio figlio ha detto che in classe non la tengono, ma c'è la distanza, perché appunto nella scuola di mio figlio molti insegnanti ancora non ci sono, perché devono lentamente rientrare, per cui loro in classe fanno parte delle lezioni con gli insegnanti che ci sono in parte online tramite video lezioni con gli insegnanti che sono ancora all'estero. Per entrare a scuola ovviamente allora al cancello si misurano la temperatura, e poi quando entrano nell'edificio ci sono due sistemi, uno che è il riconoscimento facciale con la temperatura, il detector, quello facciale, e un altro che sembra un metal detector come quelli negli aeroporti, ma ti misura la temperatura di tutto il corpo. Perfetto. Quindi se abbiamo capito bene, no, perché visto che qua si riprende la scuola, eccetera, l'unico metodo è controllare preventivamente tutti. Non ci sono altri metodi efficaci? Uno si fa il tampone e sa che almeno... Sì, tutti siamo tamponati, quindi c'è il dibattito se tutti gli insegnanti debbano o no fare i test. Invece studenti e insegnanti, tutti. Sì, sì, assolutamente, cioè, nel senso, ma è ovvio, ma soprattutto gli insegnanti, ma a parte, cioè, non solo gli insegnanti, il tampone, perché il tampone ti dice se tu ce l'hai adesso, sì. Ok? Almeno il tampone dovrebbero farlo tutti, ma perché cioè, è una sicurezza non solo per i bambini che vanno a scuola, ma anche per i genitori che sono a casa, cioè per tutti quanti, anche per gli insegnanti che sono anche loro genitori. Quello che lei dice è un'ovvietà per la Cina, qui è un grande dibattito, figurarsi se qui dicessero bisogna fare tutto, a parte che non ci sono i tamponi rapidi, quindi in Italia. Quanto tempo ci vuole per avere il risultato del tampone a Wuhan? Penso una settimana, non di più. Quindi più o meno come in Italia. Il problema è che forse hanno i tamponi per tutti a Wuhan. E qui suppongo no. Suppongo di sì, ne hanno fatti una milionata, per cui suppongo che ne abbiano. E poi tutti quelli che stanno rientrando vengono sia messi in quarantena che fatto il tampone prima di uscire dalla quarantena. Ma per capire, c'è qualche insegnante che si rifiuta, dice io il tampone non lo voglio fare, oppure qualche studente? No, perché se non lo fai, bye bye. Se non lo fai, bye bye. Ecco, questo potrebbe essere uno slogan. Se non lo fai, bye bye. Non è male come slogan, eh? Se non lo fai, bye bye. Bello, bye bye. Bello. Esatto. Bye bye è internazionale, lo capiscono dalla Cina, esatto, all'Italia. Bello, bello. Sì, sì. No, non lo fai, non bye, lo fai bye. Bye bye, nel senso che non passi più da nessuna parte. Assolutamente. Io e mio figlio siamo andati a Pechino perché sono stata invitata a dare una lecture la settimana scorsa per la settimana della scienza, sì, e mamma mia, mi hanno rivoltato come un calzino, nel senso che là hanno un altro tipo di QR code, quindi ho dovuto registrarmi una volta, una seconda volta, e avere il certificato della mia università che diceva che io e mio figlio sono stati qui a Wuhan per tutto il tempo, abbiamo fatto il tampone, che siamo negativi, che siamo insomma pulitissimi. E poi nel ritornare, quando sono uscita dall'aereo, ho dovuto firmare un paio di documenti che diceva che sono sana e pulita e non ho niente. Accidenti, va bene. Ecco. No, ma questo adesso non lo so se questo è l'unico metodo. È l'unico metodo, certo, cioè per avere un controllo totale e una sicurezza totale, questo sì. Va bene. Certo. Allora, non si è mai sicuri al 100%, certo, perché per carità, però almeno sapere che in quel momento, almeno nelle scuole, soprattutto, perché ovviamente i bambini non è che li puoi controllare a dire la distanza di due metri, un metro, cioè soprattutto i bambini piccoli, li puoi controllare fino a un certo punto. Per cui sapere che tutti i bambini, che tutti gli insegnanti, comunque sono tutti quanti insieme nell'arco di 8 ore al giorno, comunque sono almeno in quel momento senza il virus, cioè è un sollievo, non solo per gli insegnanti, ma per le famiglie a casa, per i tuoi figli, penso che sia per me è una cosa logica, noi intanto la ringraziamo Sara Platto da Wuhan, grazie ovviamente, buona giornata caro Leonardo Manera, hai capito? Le misure sono simili di prevenzione a quelle in Italia, ma a questo punto in tutto il mondo. Sì, però sono simili con le regole, però esatto, lì cogenti. Tutti, attenzione, cogente. Ha ripreso in mano il manuale. Sappiamo che l'obiettivo di Leonardo Manera è riprendere in mano gli studi abbandonati in giurisprudenza dopo nocumento. Non ricordo cosa, ora cogente. Sì, ci sono delle regole più cogenti, sì, ma però sostanzialmente. Ma che esame stai preparando esattamente? Da dove riparti? Da diritto amministrativo, vorrei dare amministrativo. C'è Mauro Meazza, secondo me, che ti può dare una mano. Secondo me Mauro Meazza è laureato, non sai che non lo so se è laureato Mauro Meazza. Non lo so, ma penso di sì. Dice che ha comprato tutto. È laureato in lettere, mi suggeriscono dalla regia. La prendo per fede, caro Lorenzo Nespoli. Poi quando arriva Mauro Meazza controlliamo, se non è vero ne risponderai in tribunale. Laureato in lettere, breve, dice Lorenzo Nespoli di Mauro Meazza. Io ho la laurea breve in lettere, che era laurea in telegrammi. Questa è una battuta. Sì, non c'era bisogno di dire che era una battuta. vuoi uscirne tu da questa situazione di difficoltà lanciando tu era il traffico? Era per lanciare il traffico in modo simpatico, divertente. Va bene, va dovrebbe bene. Anche essere loro più o meno, giusto? Sì. Se c'è ancora la signorina di ieri a leggere il traffico con quella voce sua dente, vediamo. Non lo so, vedi. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, ma perché non vuoi fare bonus vacanza? Dai, che c'è gratuitamente gratuito. Vai, vai. Milan, tu mi leggi nel pensiero. Pensavo stamattina ai gabbiani, che comunque noi anche qui in provincia di Torino è una grande rogna, creano un sacco di problemi all'ecosistema, alle coltivazioni, e sono un animale che non è nello suo ambiente naturale. Sarebbero da ridurre, come si fanno gli abbattimenti selettivi della selvaggina. Ma che ridurre? Io sto con i gabbiani, ma dai, ma smettila. Insomma. Leonardo, era la voce che chiedevi per il traffico? Non... Non te lo ricordo. Potrebbe essere, sì. Aspetta che l'app dà problemi. Mi sa che con questa app problematica ti toccherà venire in radio più spesso. Prova a ricollegarti. Sì, ci sono dei problemi, quindi tocca venire qui, caro Leonardo. Te lo dico. Ci sei? Allora, sì, ecco. Devo dire che quando l'app non va, lo capisco, perché succede un putiferio. Tu che dici non si sente, arriva Peter che dice Leo, sì, ho capito, calmi, non sta scoppiando una bomba atomica, no, ho capito, adesso riattacco, Leo, attacca, l'app, sì, lo so. Allora, io devo fare una protesta formale nell'introdurre il nostro graditissimo e nuovo ospite che ci raggiunge. Lui da anni dice queste cose che sono finite sui giornali, sono andate in TV come un allarme assolutamente imprescindibile, e lui da anni che lancia questi allarmi viene ascoltato poco o non altrettanto. Il ghiacciaio della Marmolada, secondo adesso espertoni, glaciologi, universitari, rischia di morire. Non so se si può dire così, morire di un ghiacciaio, rischia di sciogliersi, di estinguersi nel giro di 15 anni. Ma Mauro Corona lo dice da tempo! Mauro Corona, buongiorno! Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno! Come va? Bene! Bene. Allora, questo ghiacciaio della Marmolada, quante volte l'ha visto lei? L'ha solcato? A parte che scendevo quando si andava a arrampicare, poi si andava anche a sciare sul ghiacciaio, ma è normale che le cose finiscano, no? Non senza essere catastrofista, ma la terra ha una durata. Aia. La terra, sì, certo. E quindi con questo surriscaldamento dell'atmosfera abbiamo creato questo sciogliersi dei ghiacciai, quindi il ghiacciaio e la Marmolada prima non rischia, finirà. E da quel momento lì vedremo come comportarci. Io non ci sarò più e gran parte di noi, ma chi rimane dopo troveranno delle soluzioni per vivere ancora in questo progetto, come diceva Borges, in questo progetto dimenticato chiamato Terra. Però aspetta, non ci sarà mai, pare 15 anni ci sarà ancora Mauro Corona. No, ne avrei 95, non ci tengo a viaggiare con panoloni e piaghe da decubito, quindi non mi interessa fra 15 anni. Dobbiamo rassegnarci a questo, ma non solo il ghiacciaio della Marmolada, tanti altri ghiacciai sono. Quello della Marmolada è ridotto a metà, però pian pianini, c'è troppo caldo, non rimane più il ghiaccio, è come spegnere un frigo, non c'è il ghiaccio nel frigo se lo si spegne. Grande tema, sono i temi che da Greta Thunberg ha cercato di rilanciare. Io mi preoccuperei più che altro, più che del ghiacciaio, mi preoccuperei di questo clima che da Mediterraneo, che avevamo un clima mediterraneo dolcissimo, proprio invidiato. Siamo passati a un clima tropicale, non c'è mica 2 o 3 giorni fa che c'è ancora quasi stato un vaia. Questo è il problema del futuro, queste piogge che non sono più regolari o deboli, ma sono un valanghe veramente d'acqua, e con questo dovremmo fare i conti. Quindi con quel torrente lì non si può più costruire vicino al torrente. È caduto un albero, guardate, è caduto un albero, ha ucciso 2 bambini, ma quegli alberi vicino a dove transita la gente, quante volte, non sono un profeta, sono uno che guarda. Sulle strade, ad esempio, quanti alberi sono caduti e hanno fracassato macchine uccidendo la gente? Allora, a bordo strada bisogna eliminarli questi alberi, in modo che se cade non arrivi sulla sede stradale, ma lo ragiona un bambino questo. È assolutamente così, io quest'estate come tutti gli anni sono andato un pochino a Baselga, che so che conosce molto bene, Baselga di Pinè. È nato a Baselga, infatti ho visto tutti i suoi libri, sono lì esposti alla libreria, a Baselga, dove il vaia ha lasciato ancora disastri e chissà per quanti anni rimarranno lì. E poi sono stato anche in Valsenales, proprio c'è stata... Mi sono beccato quella grandinata dalle parti di Merano tornando perché ero lì a fare un'escursione. Ma sai che mio figlio sale come uno stambecco, siamo saliti fino al rifugio Petrarca, mi saliva come uno stambecchino, caro Corona. Hanno l'istinto, hanno la genetica, e quando cominciamo a impaurirli che li roviniamo, diceva il grande Macedonio, tutti i bambini sono geniali finché non cercano la mediocrità imitando gli adulti. e nella maggior parte dei casi la trovano. Cioè bisogna lasciarli fare, non hanno freni inibitori, non hanno paure. Se cominciamo a dirgli che c'è la vipera, che c'è il serpente, che c'è... Dopo si impauriscono. Leonardo, dovremmo fare una bella passeggiata con Corona. Per evitare corona, le vipere, eh? Sì, sì, a me dicevano sempre che per evitare le vipere quando si va in montagna bisogna fare un po' di rumore col bastone, si fa così? La vipera è un animale di una timidezza sconcertante, quindi non aggredisce, non attacca la vipera. La vipera devi proprio calpestarla di brutto, allora reagisce. Eh sì. Ma se sente rumori va via. E quindi fare rumore è una buona cosa, ma anche guardare dove si mettono i piedi, dove si mettono le mani soprattutto. Sì, sì, è un po' come, l'orso, abbiamo detto, cioè l'orso non è che sta lì ad aggredirti, l'orso vuole. L'orso se non ha i piccoli non fa niente, sì. Anche... non c'è un programma, scusatemi, non c'è un programma, anche la TV, oltre che a parlare di mangiare e di cuochi, no? Un programma 5 minuti alla sera con una guida alpina sempre diversa, insegnare a muoversi in montagna, andare a camminare, a muoversi. Questo, perché noi siamo improvvisatori. Il 95% degli interventi del soccorso alpino quest'anno sono stati a gente che camminava senza saper camminare, senza saper deambulare. Loro partono la mattina, andiamo lì. Per andare lì devi sapere come fai. Quindi una guida, ma soprattutto per educare non solo i bambini, i genitori anche. Sì, molti sopravvalutano. Il problema è come facciamo a sapere che l'orso ha i piccoli e non li ha? Ma allora lei non lo sa, vede, lei è uno dei primi che deve essere istruito, perché gli animali non sono come gli uomini che partoriscono ogni giorno, ogni giorno, mese, ogni ora. Hanno determinate... Quando il camoscio va in amore a novembre, fa in primavera, fa i piccoli, il capriolo lo stesso. L'orso lo stesso, non sono, cioè l'orso quando partorisce universali. Mediamente. Allora gli animali, le dico, che hanno una data precisa di quando hanno i piccoli, non sono come noi. Sì. Gli animali fanno l'amore una volta l'anno, quel periodo di due mesi, galli, forcelli, cervi, i cervi a settembre. Quindi si sa benissimo quando hanno i piccoli. L'orso per esempio in che periodo ha i piccoli? In che periodo dell'anno può avere i figli? Quando hanno aggredito il tipo lì che è andato a cercarlo, perché l'ultimo che ha aggredito, il carabiniere, sì, è andato a cercarlo, andalo. Ha sentito rumore, è andato a vedere cos'è. Sì, è successo e lì i giornali non parlavano poi, d'altro, allora, perché è stato aggredito. Al di là, sentite, al di là che del periodo, non per tutti gli animali hanno diritto di esistenza. Volatili, animali, giusto, e uomini, giusto. Quindi è inutile che l'uomo voglia spazzare via l'orso perché deve stare lui, deve imparare a convivere con la natura e gli abitanti della natura. Giusto, giusto, assolutamente. Ah, io sono assolutamente d'accordo. Corona, ma la rivediamo in TV al di là delle cose alpine e dei programmi che sarebbero giusti e doverosi? Per educare la gente, sì, io ma ho intenzione di tornare questa, però non voglio più saperne né di Di Maio né del Salvini né di Conte, e come fa? Né di questo né quello. Ci sono 10 programmi di quel tipo che dicono la stessa cosa. Io vorrei dare voce a chi non ha voce, alle prevaricazioni, agli insulti alla natura che fanno qui. Come faccio io a pagare 430 euro di acqua quando la casa mia è chiusa con tutti i morti? Chi l'ha consumata? I fantasmi di mio padre, mio nonno, mia mamma. Quindi vuol parlare di queste cose? Basta, la politica, questo. Il referendum. Ecco, ma non solo della montagna povera, anche di Napoli, se ci sono dei problemi a Napoli. Sì. Questo è il mio. Altrimenti che ci sto a fare lì? Mi dica lei. Che poi sarebbe Di Maio. La vera politica è questa, cioè occuparsi delle questioni pratiche delle persone. Ci sono, guardi, da Del Debbio a Porro, a Formigli, a Giordano, all'Annunziata, c'è tutti uguali, allora io voglio tirarmi fuori, allora ha un senso che io metta la faccia lì per aiutare chi non ha voce, altrimenti che sto a fare? Ma sempre, sono già noto ormai. Ma sempre dalla bianchina va, sì. Sì, ho deciso fedeltà a quella. a quella, non lo dica così, a quella. Quella è un po'. A quella conduttrice. Dico a quella perché non ho nessun problema a dire a quella, perché bisogna genuflettersi. No, per carità, però quella è un po' sprezzante, quella. Non è sprezzante. Alla bianchina. Dire trasmissione a quella donna, a quella conduttrice. E poi anche se fosse sprezzante, cosa c'entra? Ecco. Però io non sono di quelli, ciao, come stai? Che piacere rivederti, poi vorrebbero vederti morto. Lo sappiamo. Io sono uno che dice quello che pensa. Lo sappiamo. Quando però esce la biografia che sta finendo, viene qui a... L'ho consegnata. Quando viene pubblicata, sì, adesso l'avrà consegnata all'editore, mica a noi. Mi pare a ottobre. A ottobre, quando viene, perché ci deve raccontare di questa vita straordinaria di questo suo amico, no? Sì, una vita... Una parte ce l'ho anche giocata io, perché insomma è un personaggio quasi pessoano, un eteronimo, però perché ci ho messo anche altri dentro, ma è un uomo che ha formato la mia vita sicuramente, però non è che mi faccia illusioni, io lavoro, scrivo perché mi sarei altrimenti distrutto. Scrivo, come diceva Karen Blixen, un po' tutti i giorni senza speranza e senza disperazione, ma non ho più illusioni né velleità, faccio il mio lavoro, mi vendo qualche copia e basta, perché anche il mondo dell'editoria, il mondo degli scrittori, dei colleghi, non c'è scampo, c'è un odio, un'invidia, una ferocia, e poi vogliamo migliorare il mondo. È un po' e invece così, con le sculture come va? Corona, ne ha fatta qualcuna quest'estate? Colpisco sempre, mi piace proprio il... E poi il regalo qua e là, ho fatto dei gufi per bambini che erano felicissimi, vedere un bambino che gli regali un gufo di legno, gli cambi la vita, si ricorderà sempre di quel gesto. Stupendo. E quindi il lavoro anche lì scolpisco, ma non faccio più mostre perché qua da vivere ne ho, però mi piace... La scultura è proprio il colpo della sgorbia sul cirmolo, il profumo che ne esce e il rumore della sgorbia, che è tra il dolce e l'aggressivo. Il risultato non mi interessa più, un gufo, un gnomo, un'aquila, un ritratto, ma il risultato è quasi effimero, non mi interessa, mi interessa il percorso. L'atto. È bello l'atto, i profumi del latte. Devo assolutamente commissionare per i miei figli un paio di cose a Mauro Corona. Grazie Mauro. Voglio regalare ai miei figli due cose di Mauro Corona. Poi ci sentiamo, commissiono, un buon prezzo, mi raccomando Mauro, perché insomma, qui si fa, no? Comunque. Io se trovassi un orso per strada un po' mi spaventerei, sì. Comunque, anche sì, dopo aver verificato che non ha figli in quel momento. Pensa se però ti trovi un Mauro Meazza, sei lì che passeggi, io ce l'ho di fronte per esempio, anche quello che magari ti vuole rifilare un paio dei suoi prodotti. Laureato, sue vecchie azioni. Sì, laureato in lettere, conferma, è laureato in lettere, quale lettere? Moderne, lettere moderne, caro. Ma visto l'aspetto non si direbbe. Perché che aspetto hanno quelli? Scherzare. Per moderne. Vabbè, ma sei, esatto. sei un grande. Andiamo alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1 nessuno 100 Milan. You know I love that violent statue, Galloway the car with blows down news of the marriage of the socialist money to another one's land. And I bought one where a... Allora, caro Leonardo Manera, ieri abbiamo fatto un appello in radio dicendo vorremmo contattare, conoscere la vita dei due terrapiattisti che a Venezia, da Venezia pare, sono partiti cercando di trovare la loro Finisterre a Lampedusa. E poi però era in pieno lockdown peraltro, poi sono, non dico naufragati, ma sono arrivati, pare, stremati a Ustica, li ha ripescati, non sapeva, assetati, affamati, e poi hanno cercato anche di fuggire da Ustica, insomma una vicenda tra lo spassoso e l'incredibile, no? Non ti ha appassionato questa... Io vorrei sapere tutto delle loro vite, di questi due. Ma io no, però... No, perché hai un ospite, c'è un ospite adesso, no, che parla, certo, di loro. Ci perché sono c'è loro. Il sindaco di Ustica, il sindaco di Ustica, Salvatore Militello. Buongiorno sindaco, la ringraziamo intanto. Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Che tempo c'è a Ustica? Ci faccia un po' come va? Vi faccio soffrire, c'è un bel tempo stupendo, con il sole caldo, temperature abbastanza alte. Stupendo, io so che sono stati anche a... Ma intanto esistono, chi sono questi due che lei non ha incontrato di persona, ma insomma ha seguito tutta la vicenda, perché se li è ritrovati a Ustica di colpo, no? In pieno lockdown. Ma veda, onestamente a me pare strano, che è come una vicenda che è avvenuta il 25 di aprile, appunto in pieno periodo di coronavirus, sia tornando alla ribalta proprio in questi giorni. Sì. Io non li ho incontrati personalmente, però ho seguito tutta la vicenda, in quanto avevo emesso delle ordinanze che vietavano l'ingresso nel centro abitato, nel porto, anche i marittimi delle navi di linea dovevano limitarsi negli spostamenti. Mattina mi chiamano e mi dicono: guarda, c'è una barca a vela che è arrivata a Quadistica, sono due tizi un po' strani. Due tizi un po' strani, così li erano. Perché strani? Cioè, si sono subito strani quelli... Perché nel momento in cui le autorità locali hanno fatto i dovuti controlli, anche in base all'ordinanza che avevo emesso, nel momento in cui si sono avvicinati e avevano i cellulari in mano, loro si sono allontanati, chiedendo proprio che anche le autorità si allontanassero da loro. Quindi, perché i cellulari, secondo loro, portano insomma fonti di onde elettromagnetiche. Quindi... Onde elettromagnetiche, sì. E per cui già da lì insomma, si vedeva che erano un po' strane. Dai primi controlli che sono stati fatti, risultavano appunto due cittadini veneziani. Ma si sono qualificati così? Siamo due terrapiattisti, cioè vogliamo... No. Per la verità no, io devo essere sincero, questo discorso del terrapiattista sta uscendo alla ribalta in questi giorni, a noi questo non è risultato. E che cosa hanno detto? Cioè hanno detto, ma perché siete qua? Avranno spiegato. Ma guardi, per quello che noi poi all'inizio non volevamo neanche dare i documenti, avevano smarriti e quant'altro, poi si è ricostruito un po' tutta la vicenda. Questi due cittadini veneziani hanno praticamente acquistato questa imbarcazione a Termini Imerese, sì? Ed erano diretti, a loro dire, a Lampedusa. A Lampedusa, non si sa perché. Voglio dire, venire a arrivare ad Ustica dopo un paio di giorni di cattivo tempo che avevamo avuto in quei giorni, e loro ci hanno raccontato che sono chiusi dentro sotto coperta, quindi un po' in balia delle onde. Sì. Arrivati qua l'abbiamo visti, mi hanno riferito che erano praticamente affamati, senza acqua, quindi l'abbiamo ovviamente rifocillati. Sì. Però se noi ci portiamo storicamente proprio a quel periodo del coronavirus, dove nulla era certo e tutto faceva paura. Sì. È ovvio che a un certo punto io ho detto: no, questi dentro il paese, dentro il non ci possono stare, non entrano. Ma poi io non capisco una cosa, scusi, di geografia, ma perché se uno vuole andare a Lampedusa parte da Termini Imerese e andando a nord a sto punto verso Ustica, invece di partire da Agrigento e andare a sud verso Lampedusa? Questo ce lo siamo chiesti anche noi, come proprio perché è arrivato a Lampedusa. La base, proprio, no? Come dire? La parte opposta della Sicilia, sì. Fondamentalmente. Dal nord al sud. E quindi cosa hanno fatto? L'avete tenuti lì al porto? Quindi noi cosa ho fatto? Ho chiamato la capitania di porto di Palermo, ho parlato direttamente con l'ammiraglio Isidori, al quale ho chiesto la gentilezza di scortarli sino a Palermo, dopodiché ho contattato l'ASPE di Palermo, che a loro volta si sono presi carico di queste persone. Avranno fatto i loro controlli, e quindi se per caso fossero stati positivi venivano messi in una nave che era... Sì. Però c'è da dire di più, sindaco, perché secondo alcuni resoconti avrebbero tentato di fuggire addirittura loro da... Ma io questo poi lo leggo sempre dalla stampa, perché poi sul Palermo la vicenda non l'ho più seguita. Sono cercati di fuggire con la loro barca, sì. E poi sono stati ripescati, ma questo è quello che sono stati ripresi, è quello che poi alla fine leggo dai social in questi giorni. Sì, sì. e francamente non capisco com'è, torno a dire, questa vicenda del 25 aprile, ma perché è riuscita sulla stampa, forse evidentemente è stata riraccontata nei dettagli e quindi effettivamente le notizie esistono quando vengono riportate, dai giornali. Sì, ma io ho una curiosità invece su Ustica, perché mi pare che sia nota anche per lo snorkeling Ustica, no? Ci sono molti Ustica, pesci che si può... Ustica, come sapete, è tuttora la prima riserva marina italiana istituita, certo. Ha dei fondali fantastici, è meta di molti sub. Fino all'anno scorso a livello internazionale, quest'anno solo a livello nazionale, è un'isola appunto di origine vulcanica. Si possono vedere i pesci anche senza andare molto sotto, cioè se vado solo con la maschera senza vestirmi da sub, può fare il bagno fino alle ginocchia, dopodiché i pesci le vengono incontro. Ha paura di nuotare, insomma, si è capito, sindaco, il nostro ultima Leonardo domanda, Manera. Poi non disturbo più. C'è un resort di lusso? Perché sta cercando un resort che lo ospiti. No. Volevo chiedere se oltre a essere un'isola di origine vulcanica, però c'è anche qualche spiaggetta sabbiosa, perché a me, dopo aver fatto snorkeling, piace un attimo distendermi sulla sabbia, o sono solo rocce lì a Ustica? Diciamo che noi abbiamo prettamente un'isola di origine vulcanica, appunto prettamente formata da rocce. Abbiamo su una zona che si chiama lo spalmatore, appunto tanto spalmate sul mare, due punti, diversi punti, un paio di punti dove c'è un po' di sabbia, ma sabbia sempre acciotoli, non immaginiamo la sabbia, ecco, giusto per fare un esempio, quella di Mondello di Usini. Certo, va bene. Sindaco, e i pesci che si vedono sono belli, sono gradevoli alla vista, sono belli da vedere i pesci. Ma sindaco può anche non risponderle, guardi, perché il nostro Leonardo Manera è fatto così. Sindaco, dai, la ringraziamo. Allora, se ho capito bene, caro Leonardo Manera, la sabbia, anche se non proprio tantissima, acciottoli. Il mare c'è comodo fino alle ginocchia, quindi puoi vincere anche la tua paura di fare o immersioni o anche solo snorkeling. No, non ho paura, io nuoto molto volentieri molto nel mare, bene. Mi piace tantissimo nuotare, però non vado molto in profondità. Manca un resort di lusso, ricordiamo, e la volontà del suo direttore di ospitarti qualche giorno. Tra l'altro il sindaco ha citato Termini Imerese. Sì, da dove io sono partiti? Vicino a Palermo è Termini Imerese. Io vicino a Termini Imerese ho fatto uno degli spettacoli più complicati della mia vita. Perché era una sagra estiva e il palco era montato accanto a dove si esibiva la banda cittadina che ha suonato durante il mio spettacolo. Certo, apposta. Quindi, sì, e praticamente non si è sentito nulla di quello che dicevo io stesso non mi sentivo, però sentivo benissimo la banda. Mi è rimasto il ricordo di questa bella serata a Termini Imerese, la famosa serata in cui tutti sono tornati a casa, tutti i tuoi spettatori, a dire brava la banda. No, è stata l'unica volta che mi hanno fatto i complimenti. Dai, con questa amarezza a Termini, perché questi terrapiattisti sono partiti da Termini Imerese, che è al nord della Sicilia, se volevano andare a Lampedusa, che è sud della Sicilia? Devo dire che io non capisco perché francamente ti appassiona così tanto la storia dei terrapiattisti, però forse sei un terrapiattista anche no, tu. No, assolutamente. Dai, andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 10:46 minuti in questa puntata scoppiettante e spumeggiante. Chissà se riusciremo nel giro di due giorni a trovare una sistemazione alberghiera per il nostro Sio Bonetti. Intanto c'è Gianna che ci chiama da Bergamo, giusto? Buongiorno, sì? Gianna. Sì, prego, buongiorno. Prego. Buongiorno. Io volevo dare una risposta all'intervento di Mauro Corona, sì, il quale ha detto che bisognerebbe tagliare gli alberi vicino alle strade o in punti, secondo quelli, lui... Quelli pericolanti, quelli che rischiano. Ma insomma, gli alberi... Io ho visto l'albero che è caduto. Sì. Praticamente era privo di radici. Gli alberi vanno controllati e se sono malati, quell'albero lì non era sano... Allora sì che vanno abbattuti. Eh sì, diciamo, sennò... quelli che sono a rischio perché malati, a rischio perché insomma, quasi morti. Esatto, però non succede così. A Bergamo il sindaco abbattuto degli alberi che avevano 70 anni, i ginkgo biloba, sì, in piazze. Perché? Perché aveva deciso così, non c'era nessuna ragione, sanissimi. Due piazze ha distrutto. Nei giardini, io la mia casa è circondata di alberi. Sì. Io al massimo, quando ci sono 38 gradi o 26 gradi in casa, la mia casa è all'ombra d'estate, al sole d'inverno. Grazie agli alberi. Abbiamo il riscaldamento globale. La prima cosa che possiamo fare, è più semplice, è quella di piantare alberi, non di tagliarli. Sì, sì, ma guarda, io credo che non siano in contrasto le due cose. Cioè, si immagini se Mauro Corona sia una persona, come dire, contro la natura, anzi è tutta una vita che spende a favore della natura. Però gli alberi, per evitare tragedie come quella di Marina Di Massa, dice bisogna, nel caso, tagliarli quegli alberi, tra l'altro poi forniscono anche legna e quindi materiale per, sia per riscaldare o per lui che fa lo scultore o per le aziende. Cioè non la vedo molto in contrasto quello che lei ha detto con quello che ha detto Mauro Corona. Certamente laddove invece bisogna preservare gli alberi e piantarli, quello è da fare. In ogni caso, io non lo so, ma non mi interrompa gentilmente. No, infatti, saluto gli ascoltatori liberi. Mi hanno detto gli ascoltatori che è arrivato Garosio e l'hanno fatto entrare. Gli avevo detto di non farlo più entrare, Garosio. Allora, saluto tutti gli ascoltatori liberi mentalmente di Radio 24, cioè? Quelli che non sono condizionati dai poteri forti, quelli, cioè? Che hanno ancora la capacità di ragionare con la propria testa. Allora, io sono Giampaolo Garosio, sì, detto Geppo. Ho fondato un partito, il Partito Super Sovranista Italiano, PSSI, si pronuncia Pissi. Allora mandiamo Lino dalla regia gentilmente per far sentire, mandiamo Lino gentilmente, ecco, Pissi anche tu, siamo il Partito Super Sovranista Italiano che ogni giorno ti difende sempre di più, Partito Super Sovranista Italiano. Allora non mi interrompa, o abbandono lo studio, non mi interrompa gentilmente. Ma lei ha parlato per due ore dicendo quello difende che voleva in modo esecrabile lei è stato esecrabile, sì. E io voglio riportare le mie parole per portare la verità. Allora voglio precisare che io sono fuoriuscito dalla Lega perché non mi riconosco nelle posizioni di Matteo Salvini, perché? Che da quando si è messo gli occhiali sembra diventato un radical chic, non vedo più la differenza tra lui e il ministro Boccia, e ho detto tutto. Come dice il proverbio, allora, una parola è troppa, 10 sono poche. Non mi interrompa. Ci vuole un rimedio, come dice il detto latino, in rimedio virtus. Sono più d'accordo con Matteo Salvini. Lui dice che in Italia possono rimanere solo gli immigrati regolari. Va bene, è vero o non è vero che dice questo? Allora io dico che in Italia invece possono rimanere solo gli immigrati regolari che però conoscono le cose fondamentali dell'Italia, cioè qual è la capitale d'Italia, chi ha vinto l'ultimo campionato di calcio, l'ultimo festival di Sanremo e tutte le edizioni del Grande Fratello. Se tu non sai chi ha vinto il festival di Sanremo, sai chi ha vinto il festival dell'Uganda, l'Uganda Giro, torna a casa tua se sai solo chi ha vinto l'Uganda Giro, va bene? Allora, sarà il festival dell'Uganda, mi faccia dire. Invece non mi interrompa Milan, no, che lei è esecrabile come persona. Invece fin da quando siamo bambini che cercano di farci accettare gli extracomunitari, come si dice in latino, è torto colon, e glielo dimostro subito. Cosa lei da ridere? Se lei deve scuotere un esponente politico del PSI, mandiamo Lino, Partito Super Sovranista Italiano, vuol dire che lei è uno di quei giornalisti prezzolati dalle istituzioni, dal potere. PSI anche tu, vota PSI anche tu, Partito Super Sovranista Italiano, ti difende ogni giorno di più. Allora, cosa stavo dicendo? Fin da quando siamo bambini cercano di farci accettare gli extracomunitari, e glielo dimostro, e il potere cerca di farci accettare. Cosa ci facevano vedere da bambini? Cosa? Braccio di ferro. Orzo Way, tutti anche, i giorni ci propinavano Orjo Way. È vero. E lei non mi vorrà dire che uno che si chiama Orjo Way è di Brembate, è italiano. E loro, i buonisti della televisione, non facevano vedere una serie TV che si chiamava Mario Rossi, che evidentemente è italiano. Ma... facevano una serie Orjo Way per farci accettare, torto colon, la figura dell'extracomunitario, del negus. E poi quell'altro sceneggiato, Radici, che non è un programma tipo Linea Verde, no, era uno sceneggiato per farci sentire in colpa. Ma guarda perché? Che quelli che hanno schiavizzato gli africani, chi ha schiavizzato gli africani sono stati gli americani, mica noi. E invece cosa succede? Che gli americani schiavizzano gli africani, noi ci sentiamo in colpa a causa di sceneggiati come Radici, e poi siamo obbligati a prendere tutti gli Orjo Way a casa nostra. Ma c'è un limite a tutto, c'è un limite a tutto. Sì. Lo so che noi abbiamo delle colpe, come dice il proverbio, chi è senza colpa si scagli contro la prima pietra. No, non è ma così. Io dico che anche tutti gli altri hanno colpe, tutti gli altri hanno colpe. Prima chi? Prima di tutto chi ha colpe? Chi? Malta che è lì davanti all'Africa e gli extracomunitari non li prende mai. Lo so che cosa rispondono i buonisti come me, come lei, rispondono sì, ma Malta è troppo piccolina. Ah sì? E invece Lampedusa è grande, Lampedusa è più piccola della casa che lei c'è dentro a Milano, caro Milan. No, lei pretende, sì, c'è scritto sul campanello casa più grande di Lampedusa. Invece lei, caso Milan, lei pretende che tutti gli extracomunitari stiano a Lampedusa e non a casa sua del caro Milan, che è la casa più grande di Lampedusa. E poi gentilmente non mi interrompa, mi sto anche inalberando, mi inalbero. Allora, che Malta è troppo piccola, io dico ah sì, e allora ingranditela, fate Malta a due piani, Malta di sotto e Malta di sopra, basta mettere qualche colonna, tac, piano di sopra. D'altra parte, se a Dubai hanno fatto le isole in mezzo al mare, io credo che si può anche fare Malta a due piani, basta un po' di buona volontà, qualche muratore per non scaricare invece tutore, per non scaricare invece tutti, caro Milan, amico degli extracomunitari, dei poteri forti, delle case farmaceutiche, delle lobby dei vaccini. Il problema di... non l'Alpino in regia che continua a mandare così a mo' di macchietta la nostra sigla, no, che invece ha grande successo internazionale. Allora vada a fare il macchiettista altrove, vada a fare il caricaturista in qualche giornale di amici dei poteri. Il problema degli extracomunitari qual è? Sì. Qual è, Milan? Lo dica lei qual è, no, che io lei guardi, la sto per sfumare, che continua a pontificare, qual è il problema degli extracomunitari, lo dica lei che sa tutto. Guardi, che se... continuano a fare figli. Vabbè. Ma come dice il proverbio, semel in anno lice di inseminare, insalire. Cioè può cercare di inseminare, no, vabbè, di avere figli. Senta, una caroso, volta senti, l'anno, Alpino, guarda, tu che l'hai fatto entrare l'anno, giù, tira giù, tirami giù un altro, tirami giù anche l'inno. Dai ragazzi, ma non si può fare entrare Garosio tutte le volte. Ma vi ho detto, allora io dico, oh mamma mia, avevo messo il blocco, avevo detto alla security personalmente, se si presenta Geppo Garosio ditegli che la trasmissione non gradisce più la sua... tutto, ecco. Va bene tutto, sì? Però non che quando io vado a cena fuori arriva il venditore di rose e mi mette in imbarazzo. Ma cosa c'entra, allora dico, il venditore, amico venditore di rose? Ma tira giù, amico... dai, fru, forza, questa accozzaglia di luoghi comuni, mamma mia, non se ne può più, ragazzi. Che dire, siamo quasi in conclusione di trasmissione, l'abbiamo cacciato finalmente Garosio, l'abbiamo cacciato. Dire questo concetto, ribadisco, il venditore di rose, io te la compro la rosa, però prima di comprartela tu convinci la donna che è con me a cena a darmela dopo cena e fai sottoscrivere una promessa. Garosio, altrimenti mi ritrovo ad andare in bianco. Mettiamo l'inno, e l'unica cosa che mi ritrovo è la rosa appassita e pagata sul sfuma dell'automobile. Via Garosio. Per dovere di cronaca, insomma, ho dovuto finire anche l'inno del Pissi, super sovranisti italiani. Speriamo di non rivedere più il signor Garosio, e salutiamo il buon Leonardo Manera, se c'è, ci dai l'appuntamento a domani, caro Leonardo. Basta! Lo do io l'appuntamento allora a domani. Niente, a domani alle 9. Domani alle 9. Domani mattina alle 9. No, alle 10 a me! Uno, nessuno.